Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona domenica cari radioascoltatori e cari gastronauti. Magari state marciando verso un ristorante dove si mangia ottimo pesce. Bene, oggi parleremo proprio di questo argomento. Il pesce, quando arriva il caldo, non so perché, ma le persone sono orientate a mangiare pesce. Eppure durante l'estate la verità è che il pesce, secondo me, è meno pregiato, si trova meno pesce. Non è come d'inverno, quando l'acqua italiana è fredda, perché poi parleremo anche di pesce che arriva da fuori, però se rimaniamo in Italia con i nostri mari nostrani, sicuramente d'estate cresce la domanda, specialmente nei posti di mare, tutti vogliono mangiare pesce fresco e quindi bisogna sopperire a questa domanda, e quando c'è tantissima domanda magari la qualità scade un po'. E lo voglio chiedere subito al mio ospite, che è Enrico Buonocore, che ormai non so quanti ristoranti aperto di pesce, ormai ha invaso tutta Milano nell'acqua. Sono solo tre. Enrico, allora, ma è così che d'estate il pesce, beh, tu dirai sicuramente di no, ma la domanda cresce di pesce d'estate? La domanda cresce, innanzitutto buongiorno a tutti, la domanda cresce perché d'estate la linea, la dieta incomincia a diventare un cult per tante persone, e quindi il pesce si ha l'idea di un prodotto più light, ma devo dire che si trova sempre anche d'estate una qualità di pesce molto alta. Quello che soffre, tornando all'argomento del mare caldo, sono i mitili, quindi le vongole, quindi i tartufi, i ricci di mare, purtroppo sono quelli prodotti che possono avere un po' più di difficoltà. Fate uno dei prodotti che si consuma d'estate di più, ma non sarebbe da consumare, sono le ostriche. La gente mangia montagne di ostriche nei mesi di giugno, luglio, agosto, quando è indicato mangiare nei mesi invernali. I francesi, che sono geniali in questo, hanno inventato l'ostrica triploide, e quindi in questi canali raffrescano le acque e riescono a darti un prodotto anche durante i mesi estivi di grandissima qualità. Beh, sai, bisogna anche dire che i francesi si sono inventati che bisogna mangiare le ostriche nei mesi in R, ma noi in Italia abbiamo gennaio che non è in R, e quindi insomma non lo so cosa può succedere. Però ecco, arriviamo alla stagionalità, sì, perché abbiamo parlato dell'estate, ma esiste una stagionalità nel pesce? Ora no, a mio avviso no, ossia il pesce lo trovi sempre tutto l'anno. La tipologia di pesce, la qualità del pesce la trovi tutto l'anno su tutti i banchi del pesce, da nord a sud. La differenza è la provenienza, che è una cosa diversa. Ossia, il tonno lo mangi a gennaio quanto a dicembre, quanto a luglio, quanto a agosto. Poi, se vuoi mangiare il tonno nostrano, i periodi importanti sono giugno, luglio, agosto, settembre, troviamo i tonni dei nostri mari. Durante tutto l'anno arriva il tonno dalla Sri Lanka, dall'Indonesia, ovviamente c'è un tonno spettacolare spagnolo, l'obeso, di cui oggi sono ghiotti giapponesi, perché la forma di questo tonno, la pancia importante, dà questa ventresca di cui loro sono ghiotti. Per il resto, se parliamo delle primizie, allora mi dici, il pescatore di casa mi porta lo spillo, la seppiolina, la magnotta, allora sì, lì c'è una stagionalità, ma sul pesce locale. Però se tu mi chiedi se tutto l'anno si trova tutto, ahimè sì. Bah, io sono molto diffidente quando vedo nei banchetti delle pescherie provenienza oceano, Pacifico, Atlantico o d'altro, ma non so da quale paese. E io su questo sono molto dubbioso, perché le norme di sicurezza sulla, diciamo, sulla qualità e sulla sanità del pesce differiscono da paese a paese. Io credo che in molti paesi extraeuropei questo controllo siano decisamente minori che i nostri. Hai ragione. Noi, ecco, in langosteria abbiamo abituato la nostra clientela a consumare prodotti nostrani. Abbiamo la fortuna, grazie a questa partnership che ho fatto con alcuni fornitori di pesce che sono diventati miei soci in langosteria, di poter garantire una qualità di prodotto nostrano tutto l'anno. Ovvio che la quantità della qualità è sempre meno, perché la domanda cresce e non c'è sempre prodotto per tutti. Lo scampo, facciamo un esempio, tu lo trovi, lo scampo vive in tutti i mari, poi c'è lo scampo danese, lo scampo delle Faroe, lo scampo scozzese, che non ha nulla a che vedere con lo scampo di Manfredonia o lo scampo di Sicilia, ma sono diversità di qualità e diversità di prezzo. Ahimè, il pesce, che è uno dei temi culinari che ancora porta fuori molta gente dalle case per andare al ristorante ha un prezzo, quindi in base a quello che tu vuoi proporre al cliente trovi poi la qualità da servire. Ora lì poi si fanno le varie differenziazioni. Ma io da tanto tempo sostengo che i pesci poveri sono diventati ricchi, perché a forza di dire che erano poveri, il sugarello, cioè le acciughe, l'ala lunga, diciamo il suro, tanti pesci di questo genere che la gente non conosce, la spatola, insomma... Aia la spatola. La spatola, pesce buonissimo. Io sono del campano e a Natale si mangia spatola. Il capitone. Il capitone. Ahimè, è uno dei prodotti che ha più anisakis di tutto il mare e ce l'ha sempre. Ecco, allora vediamo di chiarire, sì. Perché l'anisakis è una brutta bestia. Una brutta bestia perché fa dei danni inenarrabili. Io anni fa ho fatto una trasmissione solo sull'anisakis e ho avuto telefonate di alcuni che erano stati colpiti con dei racconti veramente drammatici. Sì. Poi c'è anche uno chef molto famoso che è Mauro Uliassi, che addirittura, pur essendo, credo, veramente maestro sull'arte di cucinare e di preparare il pesce a Senigallia, 2 stelle, è stato colpito dall'anisakis. Ecco, ma le precauzioni per l'anisakis quali sono? Le precauzioni dell'anisakis sono di avere una attenta bonifica del prodotto che sicuramente vogliamo consumare o servire crudo. Ossia, il pesce da servire crudo ha bisogno di un abbattimento, quindi di un congelamento repentino meno 25 gradi per 36-48 ore. Questo trattamento, questa bonifica uccide questo batterio, questo vermicello che se ci entra nello stomaco fa i danni che tu hai appena raccontato. Oppure consumarlo ovviamente cotto. Ecco, quali sono i pesci a rischio? Guarda, la spatola che hai raccontato è un pesce a rischio, ahimè, quelle che io consumo fritte e sottosale, le alici sono un altro prodotto sempre a rischio, il pesce castagna, a volte anche il tonno, ha questo problema, lo spada, un altro prodotto che è, ahimè, trova questo problema, il San Pietro, anche lui è un prodotto che ha di sovente questo problema, comunque... Per non saperne leggere né scrivere, ogni volta che si consuma pesce crudo si deve abbattere il prodotto. A occhio nudo si vede l'anisakis? Assolutamente sì. Quando noi abbiamo dei ragazzi in cucina nuovi, prendiamo una spatola o un pesce castagna per spiegare cos'è l'anisakis. Lì lo troviamo sempre. È un vermicello bianco che si insinua nelle carni, a volte sembra un filamento. Sì, l'ho visto anch'io, sembra un tendine, me l'hanno mostrato. Sembra un tendine, invece è un vermicello pericolosissimo. Bene, facciamo una sosta, passiamo alla linea alla regia, torneremo fra poco sempre parlando di pesce. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Noi siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. È il mare veramente profondo. Un caro saluto a questo straordinario personaggio che non c'è più. Le sue canzoni mettono sempre la pelle d'oca, ma continuiamo a parlare di pesce. Abbiamo con noi Enrico Buonocore, patron della Langosteria 123 di Milano, ma abbiamo in linea un personaggio importante del mondo del pesce, Valentina Tepedino. Buongiorno Valentina. Buongiorno a voi e grazie per la presentazione. Valentina è forse la più grande esperta. Tra l'altro è direttrice di Fish Market e devo dire che è molto attenta a tutto quello che succede nel mondo del pesce dal punto di vista soprattutto anche normativo. E allora Valentina, io ti voglio chiedere questo: a dicembre sono avvenute delle evoluzioni sull'etichettatura, noi non ci siamo più sentiti da allora, abbiamo sempre lamentato che questa etichettatura sul pesce era forse la più carente, ora sì. Che punto siamo? Ora siamo al punto che realmente ci sono state molte lamentele, ma derivanti dal fatto che molti non erano ancora forse a norma con la precedente etichettatura, quindi è sembrato che a dicembre fossero state richieste una montagna di informazioni in più. Realmente questo non è avvenuto, semplicemente a dicembre si è dovuto precisare ulteriormente, per sintetizzare, l'origine del prodotto, quindi che deve essere specificata molto meglio, e questo vorrei sottolinearlo a vantaggio del prodotto locale, perché si potrà precisare ancora meglio che proviene, se mar Adriatico, da Cesenatico o da Rimini, piuttosto che invece dalla Croazia, se un consumatore vuole prenderlo appunto nostrano. E poi c'è la categoria degli attrezzi di pesca, cioè queste sono le due grosse novità, ecco, della... Quindi se a strascico ci sarà scritto che è strascico oppure sì, tutte sì, le altre, sì. Ecco, volevo capire questo, che secondo me era fondamentale: ci sarà ancora scritto Oceano Indiano, ma ci sarà scritto il nome del paese? Allora, per il prodotto d'allevamento chiaramente c'è anche un'ulteriore precisazione, che è proprio, diciamo, dove è stato pescato, mentre prima bastava scrivere anche, non so, per il prodotto d'allevamento Spagna, piuttosto che anche si può precisare esattamente l'area di origine del prodotto, il pesce, per esempio il persico africano viene pescato, non è allevato, ma Lago Vittoria, quindi sarà un'ulteriore identificazione del fatto che non è il pesce persico che viene pescato nei nostri laghi, che ha un valore economico, e non sto parlando di pregio commerciale, non di valore nutrizionale eccetera, ma sicuramente andare a leggere per un consumatore italiano latte snilotico, persico africano pescato nel Lago Vittoria, e poi magari mettere anche vicino, non so, Congo piuttosto che in un altro paese, allora uno proprio ha chiaro che non è il persico, diciamo, nostrano, quindi il pesce persico. Quindi, insomma, abbiamo fatto un passo in avanti, però il problema rimane sempre questo: di regole, anche dal punto di vista sulla sicurezza alimentare, ne variamo e ne vara ogni giorno l'Unione Europea, ma i controlli, ecco, questo è fondamentale, perché io continuo a vedere ancora in molte pescherie che sì, ci sono le etichettature, ma non sono ancora, diciamo, sulle norme che sono state varate a dicembre. Sì, e difatti ripeto, questo perché c'è un ritardo in generale su quelle che sono tutte le definizioni per legge da segnalare, quindi denominazione obbligatoria, denominazione scientifica, metodo di produzione, quindi pescato, allevato, l'origine del prodotto, la categoria degli attrezzi da pesca, e chiaramente segnalare, cioè, se ci sono ingredienti e lo stato fisico del prodotto. Allora, anch'io, diciamo, ho notato negli ambulanti o nelle pescherie un ritardo soprattutto su queste novità, mentre devo dire la verità, nella grande distribuzione in linea generale si sono molto allineati, perché comunque il rischio di finire anche eventualmente poi sui media per una carenza di questo tipo comunque li spaventa, ecco, purtroppo vale molto anche la questione della certo, pubblicità negativa. Volevo chiedere, abbiamo qui con noi appunto un restaurant man, come Joe Bastianich si autodefinisce, perché prima si diceva patron, proprietario, ora restaurant man, no? Suona bene, no? Ti piace questa cosa? Ma sì, dai, va bene. Allora, facciamolo passare. Sentiamo con questo restaurant man cosa ne pensa di queste nuove norme. Tu compri al mercato all'ingrosso, quindi al, sì, mercato di Milano, sì, che da molti viene considerato come il mercato principale in Italia. Assolutamente. Anche se poi io tutto questo pesce che è al mercato centrale nella ristorazione non lo so, secondo me finisce anche altrove. Comunque andiamo avanti, ti voglio chiedere, tu, sì, lo compri al mercato centrale, sì, e lì ovviamente le indicazioni sono ancora più diciamo dettagliate. Noi quando la mattina, tutte le mattine arriva il prodotto che selezioniamo ormai da sempre, perché poi il tonno è sempre il tonno nostro che andiamo a ricercare, la ricciola e quant'altro, ma quando abbiamo la primizia il nostro socio fornitore ci dà la provenienza e l'etichettatura corretta, che noi conserviamo soprattutto dei mitili, perché di tutti i prodotti, quelli che bisogna fare grande attenzione, quelli che subiscono e possono creare problemi, e bisogna riconoscere la provenienza, sono tutti quelli che sono i mitri, cozze, vongole, fasolari, cannolicchio e via discorrendo. Ovvio che prediliamo sempre di più il prodotto nostrano, a volte faccio un esempio sui frutti di mare, che ripeto uno dei prodotti dove ammettiamo maggiore attenzione, quando non abbiamo il tartufo di Taranto o il tartufo pugliese andiamo a prendere il tartufo croato o quello francese, che ovviamente a livello di gusto è un meno potente, però comunque ha una qualità buona. Ma le etichettature, soprattutto i prodotti che arrivano dall'estero Europa, che sono quelli che noi a volte andiamo a prendere, sono sempre correlati di una etichettatura corretta. Ecco, c'è così, diciamo, il luogo comune che per verificare la freschezza di un pesce uno mette il dito e vede la reazione della carne, guarda l'occhio, ma contano queste cose oppure sono luoghi comuni? No, non sono luoghi comuni, sono cose che contano assolutamente, soprattutto sul prodotto fresco, che la consistenza delle carni è determinante. Racconto un aneddoto di 2 settimane fa. Abbiamo preso dei rombo pescato a Porto Recanati, pezzature per ogni pezzo 3,5 kg, l'abbiamo potuti servire dopo 4 giorni, perché era talmente dura la carne che se l'avessimo cotta in maniera consona non era buona a consumare, se non cruda. Allora, se l'avessimo fatta cruda, l'avessimo sfilettata, ok. Quindi il pesce vero, come la carne buona, ha bisogno di rilassare un po' le sue carni, a meno che in cucina abbiamo, o in cucina al mercato del pesce c'è un buon giapponese che fa questa tecnica che ho visto a Tokyo, dove puliscono, tagliano la coda e la testa e con un fil di ferro vanno a neutralizzare e anestetizzare il prodotto, che è consumabile da allora dopo. Bene, questo è un bello, non lo possono fare tutti. Valentina, voglio chiederti un'ultima cosa. Tu che sei anche attenta all'anisakis, se alla misura di prevenzione, a che punto siamo? Gli abbattitori hanno invasi la ristorazione, si è più attenti, c'è meno anisakis? Io devo dire c'è molta più consapevolezza, addirittura ti riporto un dato che ho notato, ha fatto sostanzialmente salire, impennare anche il consumo di pesce congelato e ancora meglio di pesce surgelato a bordo, perché la gente è diventata meno ostile al prodotto congelato e surgelato, che prima vedeva come seconda scelta, anche perché lo vede come a volte più sicuro, come nel caso dell'anisakis, altre volte ha capito anche che il pesce freschissimo, proprio cosiddetto 3 giorni, difficilmente arriva in tutte le pescherie, insomma, perché a volte i 3 giorni sono anche solo di pesca, quindi c'è una nuova consapevolezza, bisogna diventare sempre più bravi chiaramente a fare quello che diceva prima il collega nel sapere riconoscere la freschezza del prodotto ittico, però ecco, chi sa che non lo consuma anche a casa subito, ecco, lo prende senza problemi oggi congelato e surgelato. Grazie a Valentina Tiepidino. Liana alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi, sempre parlando di pesce ovviamente. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Formaggio Gran Moravia, il più buono, il più conveniente, ora anche in fette. Il Gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo a parlare di pesce. Magari molti di voi si stanno avvicinando al ristorante, stanno già sentendo l'acquolina, magari una zuppa di pesce, oppure Moreno Cedroni, buongiorno. Ciao, buongiorno Davide. Senti, cosa stai preparando di buono? Quale piatto nuovo di pesce ti stai inventando, Moreno? Ma guarda, quest'estate siccome c'è questo sushi anni 50, quindi il drive-in porta l'hot dog di gambero. Poi, poi il rock and roll sushi porta tutta una serie di macchi fatti con la melanzana che funge, che sostituisce un po' l'alga nori. Poi c'è una ricciola con tutti, diciamo, ingredienti tipici hawaiani, ecco, di quel periodo, quindi ananas, cocco, senti, questi ingredienti qui. Stai parlando non del tuo ristorante alla Madonnina del Pescatore, ma quello splendido posto da cui io manco da troppo, che si chiama Clandestino. Sì, sì, è vero, ti aspetto da tanto. Però sai, tutti i piatti nascono alla Madonnina, quindi è come se fossero piatti della Madonnina. Senti, volevo proprio chiederti questo. Quanti anni fa è nato il sushi all'italiana, scritto appunto all'italiana, che tu ti sei, hai fatto questa invenzione che ti ha reso molto, molto popolare? È nato nel 2000. Quando proprio con l'apertura del Clandestino, ecco. Nel 2000, quindi, quando hai capito quel periodo, periodo splendido. Ma ecco, volevo chiederti questo: non hai l'impressione che il sushi tradizionale, che ormai ha anche invaso pizzerie, osterie, non lo so, anche agriturismo di montagna, ha fatto un po' il suo tempo? Ma guarda, rimane sempre un'alternativa comunque. Di un cibo leggero e comunque sfizioso, quindi diciamo che non perderà mai fascino. Poi, come tutti i tipi di cucina, in alcuni luoghi sono trattati male, ecco, i vari stili, vedi la cucina italiana all'estero, ecco. Però il consumatore diventa sempre più evoluto e quindi vedo anche nelle grandi città chi lo fa bene è sempre gremito, ecco, rispetto magari a altri che lo camuffano. Guarda, sento ora un restaurant man milanese, Enrico Buonocore, patrone della Langosteria, che io non avevo citato prima come restaurant man perché avevo citato Gioia Bastianis. Ma Enrico, va ancora forte il crudo? Ah, il crudo. Crudo fa nei miei ristoranti il 50% del consumo. Tra carpacci, tartar... noi consumiamo tra gamberi e scampi crudi ogni sera un qualcosa di incredibile. Poi il plateau di frutti di mare che noi presentiamo, quindi le ostriche, tutti i mitili, dal tartufo al cannolicchio, il bulò, la fasolare e via discorrendo, la gente ne consuma sempre tantissimo. È un piatto che è presente su ogni tavola. Beh, io sono molto cattivo su questo perché sostengo che l'abilità del sushi non è del ristoratore, non è del cuoco, ma è del pescatore. Perché voi ora mi correggerete tutte e due, ma in fondo, cioè, il crudo cos'è? Basta saperlo tagliare. Qui i giapponesi sono dei maestri, però non c'è l'abilità di saper scegliere il pesce. Moreno, tu cosa ne pensi? Ma guarda, io sono d'accordo e proprio per questo mi sono distaccato un po' dalla linea di tutti quei carpacci che abusavano di aceto e limone, dalla linea di tutti quei sushi che abusavano di salsa di soia. E ho proprio cercato di creare delle ricette apposite per ogni tipo di crudo e quindi tratto il crudo come il cotto, ecco, gli costruisco una ricetta, gli costruisco una storia, cerco di esaltare le qualità positive del crudo e cerco di togliere quasi del tutto le qualità negative. E questo quindi è stato un lavoro, è comunque un lavoro importante che poi ogni anno, sai, rigenero, rivitalizzo e che mi dà grosse soddisfazioni. Moreno, mentre parlavi di questo, un po' di ritorno al caldo, mi veniva in mente un piatto di un lontano giorno del 1980 alla Madonnina del Pescatore, quando tu hai preparato sulla padella, mi ricordo, un grandissimo primo piatto. Beh, insomma, io credo, ecco, qui voglio aprire un dibattito. Io credo che anche sul pesce bisogna un po' tornare indietro a dei piatti molto, molto tradizionali. Tradizionali nel senso che non contemporanei, non dico di tornare allo stile anni 50, 60, 70. Però io credo che il pesce, meglio della carne e di tanti altri piatti, si gusti al tradizionale. Cosa ne pensi, Enrico? Assolutamente, assolutamente. Noi piatti per me devono dare al cliente un'emozione e l'emozione si dà quando si dice la verità. Quindi costruire un piatto va rispettando la materia prima, il pesce lo si rispetta cucinandolo con tanta amore ma leggerezza, una mano leggera. e l'abbinamento con le verdure è quello che a me dà tanta soddisfazione, dal carciofo al fungo, all'asparago, alle melanzane, come Moreno diceva prima. Sono tutti prodotti che in abbinamento, sia nel crudo che nel cotto, danno al nostro prodotto, al mare, ai piatti di mare, un qualcosa di semplice ma di grande gusto, di grande valore. Sai, mangiare un'aragosta è già eccezionale. Se l'aragosta è buona, condirla con... poi se l'ami col burro o l'ami alla catalana o l'ami scottata con una crema di... Questo poi sono i piaceri e i gusti, ma è il prodotto che vince. Ma io non sono per l'aragosta, io sono per pesci... L'acciuga. L'acciuga, io adoro l'acciuga, ma... Il baccalà. Adoro il baccalà, ma un altro pesce che mi fa impazzire è il battibatti. Il battibatti è la mupa. E la cicala di mare, la cicala quella grande. Moreno, tu cosa ne pensi? Sì, è grande, ma anche la cicala piccola, la pannocchia, non dimentichiamo che siamo in Romagna, un gusto incredibile. Sì, Romagna, Marche, dalla mia parte si dice la canoccia, La canoccia è di grande spessore, di grandi profumi. Già solo con le bucce, pensa, no, perché vorrei stimolare tutti a non buttare via niente, solo con il carapace delle pannocchie esce un sughetto che mette paura, guarda. Ecco, io mi ricordavo proprio quello di te, su quella padella c'era proprio il carapace, me lo ricordo benissimo. Senti, tu sei in una zona privilegiata, perché quella tua parte dell'Adriatico, a parte che è vicino anche San Benedetto del Tronto, ma però ci sono degli scamponi che sono unici in Italia. Sì, diciamo che la zona evocata, sai, il largo d'Ancona San Benedetto ha proprio dei fondali adatti agli scampi, quindi siamo fortunati. Siamo sfortunati perché c'era un periodo, sai, quando io ancora, diciamo, ventenne, stavo in sala, tutti chiedevano gli scampi e quindi mi avevano un po' stufato che è vero. Non nessuno poteva fare a meno degli scampi. Poi da allora c'è stato un aumento esponenziale del prezzo e adesso purtroppo magari ci si trova in alcuni lungomari d'Italia dove lo scampo fresco potrebbe non essere sempre utilizzato perché il suo costo è arrivato alle stelle. Ecco, tu hai aperto una ferita, che è quella delle conoscenze del pesce in Italia, delle varietà. Le varietà sono circa 400 in Italia, credo che se facciamo un'indagine sul consumatore qualcuno arriverà a 10, ma io ci scommetterei anche che non tanti arrivano a 10. Voglio chiedere a te, ci dai due, così, l'indicazione di due o tre varietà che sono quelle meno conosciute, che però varrebbero la pena di essere cucinate? Ma guarda, il mio preferito fritto è il guattolo o paganello, è veramente fantastico, si trova penso a 5, 6, 7 euro al chilo, ha qualche spina in più ma una polpa bianca e succosa che fa impazzire. Adesso più avanti ci saranno le aguglie buonissime e poi va bene, che dire dello sgombro che comunque è uno dei miei favoriti. Ci dai anche tu qualche indicazione di pesci che non sono così conosciuti eppure varrebbero la pena di acquistarli? Guarda, io la mia conoscenza sui pesci non conosciuti sono quelli delle cucine di mia nonna, lo stoccafisso, lo stock che noi a Natale si mangia, la stessa spatola di cui parlavamo prima, che è un altro prodotto che mi ricorda i miei Natali passati in costiera. Ora, per esempio, nell'ultimo anno è diventato il pesce, che noi al ristorante, se fosse per il cliente, si vende branzini, orate, identici. Oggi però devo dire che c'è un pesce che è chiamato besugo, occhialone, occhiata, che ha preso la leadership. Nell'ultimo anno di occhialone è diventato uno dei piatti che noi serviamo anche crudo, più serviti ai nostri clienti, sia come secondo che un ragù fatto come primo, come pasta, che crudo. Per me sono gli anemoni di mare fritti e i limoni di mare. Limoni di mare. Ecco, queste sono due cose di cui io pazzisco, che purtroppo le trovo solamente in Sardegna. Moreno, ma dalle tue parti ci sono gli anemoni? No, non ci sono. Non ho conoscenza, ecco, nemmeno sai la zona più vocata, che può essere Porto Novo. E l'anemone non Sardegna, no? Sardegna, sì, ma dalle tue parti però negli ultimi anni addirittura a Cattolica sono stati scoperti delle ostriche naturali. Sì, sì, sì, ma anche fino a... Sai, ci sono quelle poi piatte di Porto Novo che sono incredibili, solo sono più difficili da prendere, magari, sai, non passano negli stabulari, quindi sono cose più riservate a chi va lì, fa il bagno, le stacca, le prende. Ecco, invece chi va in Liguria, ci sono queste ostriche del Golfo di La Spezia, che io ho mangiato più volte e ritengo veramente che siano di ottima qualità, non sono come quelle francesi. Ecco, quanto costano oggi le ostriche? Anche lì dipende, se vai su una fin de clara è un costo un po' più accettabile, su intorno ai 50-60 centesimi al pezzo. Se vai su una special de clara, quindi ostriche che hanno un affinamento un po' più lungo, un po' più curato, si arriva anche a pagarle €1, €1,20, €1,30, €1,50 ostrica. Per poi non parlare delle Belon, che io non amo, l'ostrica piatta, che lì ha un prezzo unitario, dipende poi al numero, al taglio, perché tu sai benissimo che la dimensione dell'ostrica ne fa anche il prezzo, a partire da €1,80, €2 al pezzo. Le ostriche, attenzione, vanno servite sempre con la sua acqua, Bene. Sicuramente non vanno, e poi non vanno secondo me mescolate come fa certa gente, mette dei condimenti sopra che sicuramente cambia completamente il sapore. Bene, fra poco ricontinueremo, ora passo la linea alla regia, ringrazio tantissimo Moreno Cedroni, il clandestino di Porto Novo, mi raccomando, per gli innamorati, perché è su una spiaggia bellissima, dove di sera veramente c'è un'atmosfera straordinaria. Ciao Moreno e buon lavoro. Ciao Davide, ciao. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Con te resto a guardare il mare, l'immenso mare. Sento giungermi nel cuore un'onda d'amore infinita. Eccoci di nuovo, pesce, sempre pesce, ci avviciniamo all'una e quindi ci avviciniamo alla tavola. Ora andiamo in Liguria, andiamo a Noli, andiamo al Vescovado da Giuseppe Ricchebuono. Buongiorno Beppe. Buongiorno. Come va? Come va la pesca in Liguria? Come va nel Golfo di Noli? Diciamo che la pesca è sempre non di grandissime quantità, ma grande qualità qui in Liguria. E cosa si pesca in questo periodo? Cosa si può mangiare di fresco, di sicuro, che viene su dal Golfo? Ma in questo momento, diciamo che proprio in questi giorni ci sono delle splendide acciughe, sugarelli bianchi strepitosi, i soliti sgombri e le palamite. Diciamo che questi quattro pesci la fanno da padrone. Sono parole d'amore per me di questi quattro pesci, Giuseppe, ma le abbattiamo? Assolutamente, alcuni prodotti vengono sicuramente abbattuti per evitare il fastidioso problema dell'anisakis, e poi li possiamo adoperare anche a crudo, così evitando ogni tipo di contaminazione. Bene, ora facciamo un volo, andiamo in Sardegna, andiamo da Roberto Pezzas. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Roberto, ma del chef di Sapposendu. Sapposendu. Di casa Puddu di Siddi. Sì. Specifichiamolo questo. Roberto. No. Roberto, ma nel tuo menù c'è scritto sopra non uso il tonno perché è un pesce in via di estinzione, o l'hai tolto? No, c'è sempre. Persiste. Persiste, ma anche se oggi come oggi forse andrebbe tolto, perché di tonno diciamo che ce n'è anche troppo, e non riescono a, non hanno abbastanza quote per pescarlo. Ma tu stai parlando del tonno rosso del Mediterraneo? Sì, proprio di quello. Diciamo che c'è una sorta di lobby per non far abbassare i prezzi, quindi funziona anche questo. Io continuo a tenerlo così anche perché preferisco utilizzare il pesce povero, quindi continuo a tenere il nome, la scritta non uso il tonno. E quale pesci? ma soprattutto adesso i sugarelli, gli sgombri locali e le palamite che sono eccezionali in questo momento, sono veramente nel momento migliore, quindi in questo momento utilizziamo sardine, acciughe, tutti questi pesci azzurri che mi piacciono molto. Sì, devo dire che il tonno sembra che, diciamo, il numero dei tonni sia migliorato negli ultimi anni, con le quote che erano state imposte, che erano molto restrittive, sembra che ci sia una ripresa, vero? Una bella ripresa, meno male, vuol dire che anche quello di averlo tolto dal menù è servito a qualcosa. Hai dato anche tu un apporto, una piccola goccia. Una piccola goccia. Voglio tornare in Liguria da Richebono. Giuseppe, ma passano i tonni, i tonnetti nel Golfo di Noli? Ma sinceramente io non ho mai avuto così l'offerta da parte di pescatori o comunque dalla mia pescheria di fiducia. So che vengono comunque trattati al mercato, in questo momento ci sono parecchi tonno alla lunga, però penso che sia un prodotto che arrivi dal Mediterraneo, da Tarragona. Presumo, almeno da quello che sento. Noi sinceramente magari passeranno, ma non c'è mercato, non c'è pesca di questo, almeno per quanto riguarda i miei fornitori. Ecco. Comunque l'ala lunga arriva anche dalla zona dello Ionio, Basso Adriatico Ionio, perché ho un amico che fa il pasticcere, però la sua passione è pescare alla lunga e me ne conserva dei barattolini ogni anno, e posso dire che l'ala lunga addirittura è favolosa come pesce. Pezzas, tu cosa ne pensi dell'ala lunga, visto che sei... Ma la utilizzo perché comunque è ritenuto sempre un pesce povero, quindi mi piace molto, anche perché è una bella carne, un bel gusto e si presta a tante preparazioni. Ecco, ho detto prima che... pesci poveri lo erano un po' di anni fa, poi piano piano sono diventati ricchi, perché i prezzi dei pesci poveri sono cresciuti, Roberto. Sono cresciuti assolutamente, soprattutto di alcuni pesci che una volta non venivano quasi utilizzati e venivano quasi regalati. Io mi ricordo quando ho aperto il primo ristorante, da noi la pezzonia, che era un pesce scarto, te la lanciavano addosso. Oggi spunta a prezzi come la spigola o come il dentice, quindi è diventato il pesce cosiddetto povero, è diventato di moda, e quindi anche i pescatori hanno capito e hanno alzato i prezzi. Ecco, ci localizzi per i nostri radioascoltatori, Siddi? Dov'è precisamente? Allora, siamo a 56 km da Cagliari, verso nord, tra Oristano e Cagliari. Si percorre la 131, che è la strada principale che attraversa tutta l'isola, e all'altezza di San Luli si gira a destra e ci sono 10 km di strada all'interno. Ecco, Casa Puddu, ho visto che fa tantissime iniziative. Cos'è precisamente Casa Puddu? Casa Puddu era la dimora dei vecchi proprietari della più grande pastificio industriale della Sardegna, che era la Pasta Puddu, e poi venne acquistata dal comune, lasciata vuota per circa 10 anni, e poi da lì un giorno arrivai io, la vidi, mi piacque, e quindi l'abbiamo riempita. Adesso c'è il ristorante e in più c'è l'Accademia di Cucina, dove formiamo circa 30 ragazzi all'anno. E così hai lasciato Cagliari, insomma, hai mollato Cagliari, e sei molto più contento, mi pare di sentire. Assolutamente sì, sono molto felice, anche perché fare impresa in un posto così difficile è anche più stimolante. Bene, è molto più facile farlo a Noli, Richebono, perché siamo proprio nel centro della Liguria, insomma, eh. Ma guarda Davide, io ti sto parlando e sono sulla terrazza, proprio il mare qua sotto, si sente l'infrangersi dell'onda e basta, quindi devo dirti che oltre che essere anche agevolato nel periodo estivo, è un piacere lavorare in queste condizioni. Poi mangiare tra gli olivi, insomma, vedere il mare davanti, insomma, credo che sia il massimo. Ma io lo auguro a tutti i nostri radioascoltatori, magari quelli che in questo momento si stanno muovendo, di trovare dei posti così. Bene, siamo arrivati in fondo al mare, e quindi io ringrazio Enrico Buonocore, patron della Langosteria, delle Langosterie di Milano, Roberto Pezza, Sappossendu di CD, togliamo Casa Pud perché poi verrà trovata, e Giuseppe Ricchebuono, chef del ristorante Vescovado di Noli. Bene, buon pranzo a tutti i nostri radioascoltatori e buon weekend. Saluto a tutti.